Oggi vorrei parlare rapidamente della questione come ha potuto verificarsi un processo di assorbimento, la parola esatta sarebbe sussunzione, della intera dinamica economica da parte del circuito finanziario, da parte dell'astrazione finanziaria. Come ha potuto verificarsi una così integrale, così profonda, così avanzata finanziarizzazione delle dinamiche economiche? E cerco di rispondere da un punto di vista specificamente comunicologico, dal punto di vista della sociologia della comunicazione. Finora noi abbiamo toccato tantissimi argomenti, abbiamo, diciamo, fatto riferimento a bibliografie differenti, a temi differenti, perché i temi che sono implicati in questo processo sono molti, però lo specifico disciplinare del mio corso è sociologia della comunicazione, quindi più che ragionare su questioni di tipo economico o di tipo filosofico, che pure ci interessano, possono benissimo costituire argomento di esame. Se uno viene all'esame e mi dice che il suo libro di riferimento è il libro di Baudrillard, va benissimo, anche se non è proprio un libro di sociologia della comunicazione. Va benissimo anche se uno mi porta il primo libro del Capitale di Marx, o se qualcuno vuole portare Capitale e Linguaggio di Christian Marazzi. Quindi non voglio essere stretto sulla dimensione disciplinare, però vale la pena approfondire la questione specifica del rapporto fra tecnologie di comunicazione, mutamento sociologico del fenomeno comunicativo e effetto finanziario ed effetto finanziarizzazione, anche perché non è un argomento secondario, anzi. E allora ritorniamo a ricapitolare la questione, questa volta da un punto di vista della trasformazione, delle trasformazioni che coinvolgono le tecnologie di comunicazione e che coinvolgono le ideologie, le teorie che sono legate alla sociologia della comunicazione. Naturalmente il centro della nostra attenzione sarà la formazione della rete di internet, cioè quel processo che si svolge in un periodo che va dalla fine degli anni 60, diciamo dall'inizio degli anni 70, fino al 92. Non sto qui a ricapitolare la storia di internet perché l'avrete già studiata, la conoscete, però diciamo l'antesignano di quello che noi oggi chiamiamo internet è una rete militare che prende nome di ARPANET e che viene costituita, strutturata tra il 68 e il 69 da un gruppo di scienziati e tecnici americani guidati da un signore che si chiama Teller, Edward Teller. E La struttura ARPANET è semplicemente il collegamento telefonico di un certo numero di computer, dei computer che contengono al proprio interno l'informazione militare del sistema militare americano. La ragione è molto semplice da comprendere: se tutta l'informazione sta in un computer, i russi ci bombardano e distruggono tutto. Se invece la distribuiamo in molti computer non potranno farlo. E così, per ragioni originariamente militari, nasce quella che possiamo definire la prima rete telematica. Telematica, parola che viene coniata nel 1977 da Nora Emink, che vuole dire connessione della telefonia con l'informatica. Negli anni successivi la rete, oltre che essere ovviamente utilizzata dal sistema militare americano, comincia ad essere applicata anche in alcuni ambienti accademici, negli istituti di fisica o di informatica o altri istituti del mondo, si comincia ad utilizzare la trasmissione telefonica dei dati contenuti all'interno dei computer. Ma soltanto nel corso degli anni 80 la rete prende una prima configurazione matura in Francia, dove viene sperimentato a partire dal 1981-82 un sistema telematico chiamato Minitel, ne ho già un po' parlato, che è un sistema centralizzato, diciamo, alimentato dallo Stato francese all'inizio, e però costituito da una serie, un milione, vengono regalati un milione di computer a cittadini francesi poveri, e poi un altro milione se lo compra, quindi 2 milioni di computer in Francia sono collegati fra loro e possono scambiarsi informazione di vario genere. È il primo esperimento di una rete civile, non militare, e nel corso degli anni 80 viene largamente utilizzata in Francia, ma rimane un fenomeno francese, in lingua francese, con una struttura tecnica limitata al territorio francese, e quindi la Francia non coglie la potenzialità che questa tecnologia contiene al proprio interno. Contemporaneamente in varie zone del mondo, come la California soprattutto, si vanno costituendo i primi sistemi di, diciamo, comunità virtuale, le BBS, che vuol dire Bulletin Board System, sistemi di collegamento fra computer privati che si collegano telefonicamente per dare vita a comunità di studio, di ricerca, di agitazione politica e così via. Nasce quel fenomeno che poi andrà sviluppandosi negli anni successivi e che dà forma alle comunità virtuali. Propriamente in California ce n'è una che è la prima grande comunità virtuale, che si chiama WELL, che significa Wall Earth Electronic Link, e insomma gli anni 80 sono anni ancora di sperimentazione di un sistema che non è ancora internet, ma che già contiene molti dei principi concettuali e anche tecnici di quella che poi diventerà internet. Qual è il salto che rende possibile la formazione di quella che noi oggi chiamiamo internet? Certamente quel salto è la creazione del sistema denominato World Wide Web, che costituisce per la prima volta una possibilità di navigazione globale all'interno, cioè, di un indirizzario di siti che non ha limiti di tipo nazionale, e questo sistema del World Wide Web viene perfezionato all'inizio degli anni 90 al CERN di Ginevra sotto la supervisione di un tecnico che si chiama Tom Berners-Lee, e tra il 92 e il 93 internet inizia la sua esistenza matura, si sviluppano, si creano i primi motori di ricerca, le prime interfacce di navigazione, i browser sempre più evoluti, e tra il 92 e la fine del decennio l'utenza di internet comincia ad acquisire una dimensione che corrisponde insomma, ad una realtà di massa. Alla fine del decennio si possono calcolare fra i 400 e i 500 milioni di utenti, per cui nell'arco del decennio la rete è diventata un fenomeno di comunicazione effettivamente massiccio. Beh, questo è il quadro tecnico della questione. Non dobbiamo dimenticare che nel passaggio dagli anni 90 agli anni 2000 si verifica un mutamento immenso, enorme nella struttura di internet, che è quella che va sotto la definizione di web 2.0 e che è essenzialmente dovuta ad un fenomeno di accelerazione di aumento della velocità nel trasferimento dell'informazione. Il trasferimento della velocità significa anche evidentemente la possibilità di portare una massa di un pacchetto di informazione più consistente, sempre più consistente, cosicché l'internet originario permetteva di avere accesso quasi soltanto a testi e molto raramente e difficilmente a immagini, mentre l'internet del secondo decennio è caratterizzato soprattutto dal trasferimento di informazione visiva, dalla possibilità di creazione di situazioni di comunicazione online che coinvolgono la presenza, la telepresenza e così via. Chiuso, punto, e passiamo a vedere che cosa tutto questo c'entra con la finanza. Il sistema finanziario non è una novità degli anni 80 o 90, la finanza esiste da quando esiste il capitalismo, anzi in un certo senso esiste da prima, perché il capitalismo moderno, lo sviluppo delle industrie, la creazione delle grandi città, la creazione del mercato di massa e così via, presuppone evidentemente il credito, cioè è necessario che ci siano delle istituzioni che accumulano denaro e che lo prestano a coloro che poi lo usano per intraprendere, per creare un'officina o qualcos'altro. E dunque la finanza come sistema di supporto e di credito e di scambio al servizio dello sviluppo economico dell'economia capitalistica è cosa che esiste da diversi secoli. La prima banca, il Monte dei Paschi di Siena, nasce alla fine del XIV secolo, quindi insomma la banca ha una lunga storia e la finanza ha una lunga storia. Ma quello che Marx, ad esempio, dedica una parte del suo libro più noto, Il Capitale, lo dedica alla questione del credito e della moneta. Perché poi, ecco, qui adesso parliamo di finanza, ma potremmo anche chiederci, e la moneta? La moneta non esiste certo da poco tempo, la moneta in fondo accompagna la storia dell'umanità fino dai tempi più antichi, per quello che possiamo sapere, la moneta come strumento di scambio, cioè come possibilità di acquisire dei beni o dei servizi in cambio non di beni o di servizi, ma in cambio di un equivalente generale. Questa è la moneta, secondo quello che ci dice Marx. Marx ci presenta la moneta come equivalente generale di tutte le merci. Ma dunque qual è la novità della quale noi stiamo parlando? La novità non è la finanza, è la finanziarizzazione, cioè la progressiva il progressivo assorbimento, la progressiva subordinazione dell'intero sistema economico alla funzione finanziaria. Ma allora, nel momento in cui accade questo, intanto grazie a cosa può accadere? E qui vediamo la funzione delle tecnologie di comunicazione, che ora rapidamente analizziamo. Punto 2. Che effetti determina quella che chiamiamo finanziarizzazione? E, punto 1. La finanziarizzazione si rende possibile nel momento in cui il mercato dei capitali non è più un fenomeno sostanzialmente ristretto, marginale e coinvolgente solo una piccola parte della popolazione, ma nel momento in cui si massifica, coinvolgendo enormi masse di popolazione e quindi coinvolgendo anche enormi masse di capitali che vengono raccolte da una popolazione che molto spesso, nella grande maggioranza, non è una popolazione di capitalisti. Come accade questo? Accade grazie alle tecnologie di comunicazione di rete, perché da un certo momento in poi, dagli anni 80, ma soprattutto a partire dagli anni 90, diventa possibile per una massa enorme di persone diventa possibile partecipare al mercato finanziario con piccole somme, con la somma che corrisponde magari a uno stipendio, a mezzo stipendio, e attraverso un medium che ti arriva in casa e quindi non ti richiede una professionalità finanziaria, quello che chiamiamo net trading, cioè lo scambio di stock options, di azioni, di partecipazioni, obbligazioni, insomma dei vari titoli finanziari attraverso la rete telematica. Ma non solo questo è il fenomeno significativo. Contemporaneamente la globalizzazione dei mercati finanziari, il fatto cioè che i mercati finanziari non sono più localizzati in una città o in un paese, ma sono accessibili da qualsiasi parte del mondo, sempre grazie alle tecnologie comunicative globali, grazie a questo diventa possibile reperire enormi masse di denaro in ambienti che non sono costitutivamente destinati all'investimento finanziario. Per esempio, pensiamo ai fondi pensione. Cosa sono i fondi pensione? Ogni lavoratore accumula soldi, una parte del suo salario, per farsi la pensione. Cioè io lavoro da 30 anni e ogni mese una parte del mio salario viene preso dal mio dottore di lavoro, che è il comune di Bologna, insegnavo in una scuola del comune di Bologna e quindi il mio contratto originario sta lì, il comune di Bologna prende una parte del mio salario e lo mette in un fondo pensione che un giorno dovrà pagarmi la pensione. Quel giorno secondo me doveva essere 3 anni fa, però non lo è stato, sappiamo perché. Cosa ci fa il Comune di Bologna di quei soldi? Li mette in banca o li può anche investire per farli fruttare, ma insomma generalmente fino ad un certo punto, fino agli anni 90, questo accadeva su scala locale, controllabile, ed inoltre le banche che accumulavano il denaro dei cittadini non potevano investire questi soldi sul mercato di rischio, cioè i soldi dei cittadini una banca che raccoglie soldi, che si chiama banca commerciale, non può essere anche una banca di investimento. Questo era un principio che in America era formalizzato con una legge che si chiama Siegel, e poi c'è un altro nome, sono due nomi firmatari, io mi ricordo solo Siegel. Comunque c'era una legge fino agli anni 90 che prevedeva che le banche che raccolgono i soldi degli risparmiatori non possono investirle in fondi di rischio. Durante la presidenza Clinton, negli anni 90, nel pieno di questa ondata di globalizzazione e di allargamento dei mercati finanziari, si ritiene che questo sia un ostacolo. La deregulation, della quale abbiamo già parlato, deve togliere di mezzo tutti gli ostacoli perché il capitale possa circolare del tutto liberamente. Per cui si abolisce quella legge che garantiva i fondi pensione, per esempio, o comunque il risparmio dei cittadini, e si permette alle banche, che raccolgono i soldi dei privati, si permette di investire sui mercati finanziari e sui titoli a rischio. Questa è all'origine di gran parte del problema che abbiamo oggi, perché enormi masse di risparmio sono stati investiti in titoli che poi si sono rivelati non fruttuosi, ma completamente infruttuosi, fallimentari e così via. Ecco che da un certo momento in poi i fondi pensione hanno cominciato a dissolversi. Nel 2000, dopo il fallimento della Enron, che aveva dei fondi pensione, i tagliaboschi canadesi, cito sempre questo esempio perché è il primo esempio considerevole, i tagliaboschi canadesi, 14.000 lavoratori che avevano investito i loro fondi pensione nella Enron, scoprono che non hanno più la pensione perché la Enron è fallita, e da quel momento questo fenomeno si diffonde nel mondo in maniera sempre più ampia. Dunque, ricapitolando, il passaggio che rende possibile il predominio del settore finanziario sulla dinamica economica complessiva è prima di tutto un passaggio tecnocomunicativo, cioè è grazie alle tecnologie di rete, alle tecnologie digitali che globalizzano la comunicazione, ma anche il mercato, che diviene possibile questo processo di progressiva centralità dello scambio finanziario. Ma a questo punto noi dobbiamo dire che è accaduto qualcosa nello statuto stesso del denaro, nel concetto stesso di quello che è il denaro e di quello che è la finanza. Marx aveva detto che il denaro è l'equivalente generale, ma a questo punto noi scopriamo che il denaro è anche un'altra cosa, non è solo un equivalente generale, ma diventa anche uno strumento di comando, di controllo sul lavoro, sulla vita delle persone. E questa è la cosa che studia in modo particolare Maurizio Lazzarato nel suo libro La fabbrica dell'uomo indebitato. E lui proprio cerca di capire in che modo il denaro e la finanziarizzazione della nostra vita diventi un elemento di controllo sulla nostra vita medesima. Perché dico finanziarizzazione della nostra vita? Perché io non ho nessuna voglia di diventare un finanziere, cioè proprio è la cosa più lontana da me, per nessuna ragione al mondo. Io guadagno dei soldi, sono fatti miei, li uso per fare un viaggio, per comprarmi quello che mi pare, e basta, poi alla fine del mese sono finiti e me ne arrivano degli altri. Così vorrei vivere, e invece sono costretto a diventare un capitalista finanziario, perché una parte del mio denaro viene preso e investito in modo rischioso, per cui io da quel momento in poi so che la mia pensione rischia di sfumare se quel fondo pensioni fallisce, Per cui io sono, contro la mia stessa volontà, costretto a partecipare ad una dinamica, che è la dinamica del rischio finanziario, della quale io peraltro non so niente, non ho la competenza, non ho la voglia di avere quella competenza, anzi mi fa schifo quella competenza, ma la mia vita per larga parte dipende da quello. Ma no, adesso ho citato il caso dei fondi pensione, lo stesso potrei dire per l'indebitamento studentesco. Come voi sapete, negli Stati Uniti, in Canada, in Inghilterra e sempre di più anche nell'Europa continentale, se volete studiare dovete indebitarvi, cioè dovete fare un mutuo con la banca che vi dà dei soldi sempre di più, perché il costo degli studi, come sappiamo, negli ultimi anni cresce ogni anno, ma adesso stanno preparando una riforma che è tutta basata su incrementare la competitività fra gli studenti, che vuol dire che chi ha molti soldi potrà essere più competitivo, dunque ci si dovrà indebitare sempre di più. Ma cos'è l'indebitamento? L'indebitamento vuole dire che io sono costretto a fare un mutuo di $40,000 per potermi laureare. Il giorno stesso in cui mi laureo, io devo accettare qualsiasi rapporto di lavoro che mi permetta di cominciare a restituire quei soldi che mi strangolano per anni e anni e anni della mia vita. Negli Stati Uniti sta nascendo un movimento che è proprio centrato su questa cosa, cioè non riconosciamo più il debito studentesco. Ecco, in questa maniera voi vedete cosa vuole dire finanziarizzazione. Finanziarizzazione vuole dire il trasferimento della dinamica finanziaria da uno spazio specifico, che è quello del credito per le imprese, allo spazio della vita quotidiana senza più nessuna limitazione. Ogni atto, da quello di acquistare una casa, quello di prepararsi la pensione, quello di fare una scuola per potersi laureare, eccetera, eccetera, ogni atto della vita quotidiana passa attraverso una sottomissione ad una dinamica di finanziarizzazione, ma più precisamente di indebitamento. Ed ecco che qui viene fuori l'ultimo concetto che io ho cercato di precisare. Dico due parole sul debito, poi ritorno alla questione del rapporto fra finanza e tecnologia di comunicazione. Il debito, cos'è il debito? È appena uscito, ve l'ho fatto sapere perché Luca l'ha fatto sapere a me, io non sapevo che stavo uscendo proprio in questi giorni, ma non lo sono ancora andato a prendere. È uscito adesso il libro di David Graeber, Debito, il titolo inglese è Debt, the first 5000 years, i primi 5000 anni di storia del debito. David Graeber sarà a Milano il 12 di giugno, farà una conferenza pubblica da qualche parte, probabilmente ci sarò anche io, ma comunque io non ne sono sicuro, lui c'è di sicuro, e vi consiglio di andare ad ascoltare, perché tra le altre cose è una persona straordinariamente spiritosa, gradevole e intelligente. E che cosa dice in questo librone David Graeber? Graeber è un antropologo, non un economista, però lui dice qua, lui inizia raccontando una storia, dice: ma ero a pranzo a un party dove c'erano dei signori della finanza a New York, lui è professore universitario, talvolta lo invitano a dei party, e parlo con una signora della questione del debito e le dico: ma qua non si può costringere la gente, questi poveri greci, rischia che vanno a finire molto male se li costringiamo a pagare un debito che insomma non gli compete poi tanto. La signora mi risponde: ma come, i debiti vanno pagati? Allora io mi rendo conto del fatto che questa frase è una frase che sembra in sé sembra giusta, però poi mi provo a farle notare che molto spesso il debito di un paese qualsiasi è stato, che ne so, prendiamo del Sudan, quell'enorme, o dell'Argentina negli anni 90. Chi ha contratto il debito in Argentina? Un signore che si chiama Carlos Menem. Carlos Menem ha investito i soldi che gli venivano dal Fondo Monetario Internazionale, lo ha investito in una banca svizzera, sotto il suo nome personale. Però il debito lo devono pagarlo, deve pagare il popolo argentino. Alla fine del decennio, quando Menem non viene più, non è più presidente della Repubblica Argentina, si scopre che i soldi sono spariti, però il debito è rimasto. Ma questa cosa è la regola. I greci che debito debbono pagare? Perché si sono così indebitati i greci? Perché hanno chiesto soldi a delle banche tedesche, francesi, soprattutto tedesche e francesi. Chi gli ha chiesti questi soldi? Gli ha chiesto un partito che si chiama Nea Democratia, che è un partito di destra che ora ha perso le elezioni e che rappresenta un 5% dei ricchi greci che non pagano le tasse. Dunque questi si sono indebitati con le banche tedesche e francesi, hanno incamerato non so quanti milioni di miliardi, li hanno presi, investiti in banche svizzere, così stiamo sicuri. A questo punto loro hanno il loro credito, il loro gruzzoletto in Svizzera, il popolo greco deve pagare il debito, ma il debito non lo abbiamo contratto noi, lo hanno contratto quei signori là, noi non abbiamo nemmeno visti quei soldi, tanto più che gran parte di quei soldi sono stati investiti per comprare armi prodotte dalle fabbriche tedesche e dalle fabbriche francesi, aerei Mirage prodotti dalle fabbriche francesi, o merci che in generale venivano prodotte da fabbriche tedesche. Ora, dunque, il popolo greco deve ora pagare un debito che non è il suo debito, è il debito di una classe dirigente che ha già fatto sparire quei soldi. Lo stesso succede in Spagna, succede in modo diverso, perché in Spagna il debito si è accumulato per costruire case, cioè le grandi aziende delle costruzioni hanno investito enormi capitali prestati sulla costruzione di case di cui nessuno aveva bisogno, adesso c'è un milione di case sfitte. La gente non ha la casa perché non può occupare le case sfitte, e però bisogna pagare un debito che i grandi costruttori hanno contratto per costruire case che oggi nessuno occupa e per portare poi i loro soldi in Svizzera da qualche parte. Insomma, David Graeber dice: ma io vorrei dirlo a questa signora che non è vero che bisogna pagare un debito, ma lei neanche mi sta ad ascoltare, perché è sicura del fatto suo che i debiti si debbono pagare. Ecco, vedete, il libro di David Graeber è costruito da un signore che non fa l'economista. Per gli economisti i debiti si debbono pagare, è ovvio, il debito va pagato, non occorre dirlo. L'antropologo, che non si occupa solo di matematica del dare e dell'avere, ma anche di una dinamica sociale, culturale e umana, osserva che quel debito intanto non è un debito legittimo, e in secondo luogo non è neppure un debito pagabile, perché le società come la società greca o quella spagnola o quella italiana che hanno contratto debiti non hanno più le risorse necessarie per pagarle, perché quelle risorse sono già scomparse, sono già state fatte scomparire dalla classe finanziaria che ha accumulato quel debito per il proprio arricchimento. Dunque, il debito ha funzionato e oggi sta funzionando sempre di più come una sorta di depredazione delle risorse sociali ad opera della classe finanziaria, ma non solo. Il debito funziona anche come elemento di sottomissione della vita e del lavoro della gente, perché tu hai contratto il debito, quindi adesso devi lavorare per pagarlo. Non fare tante storie, lavori alle condizioni che dico io, con i ritmi che decido io, con il salario che sono disposto a darti, perché devi pagare il debito. non c'è niente da fare, il debito va pagato. Ecco come l'indebitamento ha finito per diventare il catenaccio che costringe la vita collettiva all'interno di una dinamica di sfruttamento crescente e di impoverimento crescente. C'è un'ultima cosa che vorrei dire a proposito della questione del debito, che è importante. A partire dagli anni 70-80, quando la ideologia neoliberista comincia a diventare dominante in gran parte del mondo, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti e poi altrove, il neoliberismo afferma come principio fondamentale quello della deregulation, quindi i capitali non debbono più avere nessuna limitazione di ordine legale o di ordine sociale o di ordine sindacale, ma anche il principio secondo cui l'elemento veramente produttivo è il capitale e non il salario. Quindi per favorire il capitale bisogna, per favorire la crescita, perché è il capitale che mette in moto la crescita, bisogna ridurre i salari. Inizia un processo che negli ultimi 20-30 anni si è sviluppato su scala globale, anche grazie alla apertura del mercato del lavoro dei nuovi paesi industrializzati, la Cina, l'India, il Sud America, il Sud Africa, paesi che o i paesi dell'Est Europa, la Romania, la Bulgaria e così via, paesi che offrono lavoro a salari bassissimi e quindi abbassano il salario dei lavoratori di tutto il mondo. Ma nel momento in cui questo comincia ad accadere, negli anni 80 e soprattutto negli anni 90, c'è un piccolo problema, che i lavoratori americani o europei o inglesi non hanno più i soldi per comprare le merci che l'industria produce per loro, perché poi i grandi consumatori, almeno fino a adesso, non sono stati i nuovi mercati come la Cina o l'India o Sud America, ma sono stati il Nord America e l'Europa. Questi sono i mercati che hanno tradizionalmente consumato di più. Come facciamo a fare consumare molte merci ai lavoratori americani dal momento che il salario negli Stati Uniti d'America crolla a partire dagli anni 70 in termini relativi, crolla sempre di più, cioè il salario serve sempre di meno per comprare, per mandare i figli all'università, per comprare le cose necessarie per la sopravvivenza, eccetera, eccetera. Come facciamo a mantenere aperta la dinamica del consumo? Ecco, trovata la soluzione. La carta di credito diventa un oggetto assolutamente banale. Tutti possono avere ed usare la carta di credito, nei paesi occidentali naturalmente. Questo, soprattutto negli Stati Uniti, determina un boom immenso dell'indebitamento personale, del cosiddetto indebitamento delle famiglie. Alcuni economisti ritengono che la bolla più grande di tutte è quella, non la bolla dei mutui immobiliari, e prima o poi esploderà anche quella bolla, cioè prima o poi le banche dovranno rendere conto di tutto quel credito che hanno concesso ai privati, i quali non hanno più i soldi da restituire, quindi le banche hanno dei valori a cui non corrisponde nulla in termini di denaro restituito, eccetera. Dunque, l'indebitamento delle famiglie, l'indebitamento personale, è diventato il fattore principale per incrementare i consumi nel corso degli anni 90 e degli anni 00. Negli ultimi 20 anni, dunque, il debito è diventato anche la valvola che ha reso possibile un'espansione, un permanere, un espandersi del consumo nei paesi occidentali. Come sappiamo, tutto questo è giunto a conclusione, insomma, il settembre del 2008, quando esplode la prima delle bolle, la bolla dei mutui ipotecari americani, poi adesso è esplosa la bolla dei debiti sovrani europei, poi prima o poi esploderà la bolla dell'indebitamento personale. Ecco, da quel momento in poi la dinamica che ha sorretto l'economia globale negli ultimi 30 anni si è fermata, non funziona più, quella dinamica non è più in funzione. Che cosa accadrà? Naturalmente non lo sappiamo, non lo sa nessuno, possiamo fare delle ipotesi più o meno drammatiche, ma insomma siamo qui che seguiamo la situazione. Benissimo, chiuso l'argomento debito, per il quale vi rimando ai due libri, diciamo, principali della mia bibliografia, che sono Maurizio Lazzarato, La fabbrica degli uomini debitati, e David Graeber, Debito. E sul debito potremmo aggiungere anche una osservazione di tipo diciamo semiologico. Cioè, il debito, e questo David Graeber lo dice molto bene, il debito è, contrariamente a quello che crede la signora che lui ha incontrato a quel party, non è una cosa naturale come il sole o la luna. Il debito è un effetto di un atto di linguaggio. Cos'è un atto di linguaggio? È un scambio, un enunciato che modifica i rapporti fra le persone. È quella che si chiama la funzione performativa del linguaggio. Se io dico la lezione è finita, io ho detto delle tre parole, tutti ci alziamo e ce ne torniamo a casa. Se io dico siete marito e moglie, nel vostro caso la cosa è piuttosto complicata, ma insomma Ratzinger permettendo, siete marito e moglie, e ho l'auto, sono un prete o un sindaco e dunque ho l'autorità per farlo, da questo momento fra di voi succedono delle cose che non sto nemmeno ad immaginare. Ora, che cosa vuole dire questo? Cosa vuole dire questo? Che ci sono delle forme di enunciazione linguistica che modificano lo stato reale delle cose. Sono gli atti performativi, sono tanti, nel linguaggio che noi usiamo ogni giorno vi sono molte formule che hanno carattere performativo. Se io dico il cielo è blu, sto facendo un atto denotativo, sto indicando una cosa che c'è, può essere vera, può essere falsa, ma il fatto che io dica il cielo è blu non comporta nulla. Già se io dico sta piovendo, sto descrivendo una cosa, però c'è anche un elemento di performatività, perché può darsi che io voglia dire prendi l'ombrello se stai uscendo. Quindi è un'informazione, una denotazione che contiene un elemento di performatività. Insomma, diciamo, performativo è ciò che nel linguaggio istituisce un nuovo ordine di realtà, che modifica la realtà con il semplice fatto di essere detto, di essere proferito. Io faccio girare intanto questi due fogli, uno è per oggi e uno è per la settimana scorsa. Chi vuole firma. Io ci avrei un dubbio, cioè mi aggancio a questa cosa. Prego, prego, prego. Cioè forse può essere interessante agganciare, non so bene in che modo, però quando si dice che il debito ha da essere pagato, mi viene in mente anche la situazione in cui uno compie un atto illecito e quindi deve essere incarcerato o è tenuto a pagare qualcosa. Da questo punto di vista è un po', se il debito pecuniario può, cioè ci apre la porta a non essere pagato, il discorso su il crimine commesso è più difficile. Poi vabbè, per me personalmente non costituisce nessun problema, però mi rendo conto che è interessante considerarli sullo stesso piano, perché sì, per me lo sono, nel senso che... Sì, però nota che ogni atto di linguaggio può essere dissolto, modificato da un altro atto di linguaggio. Per cui se tu mi hai rubato il portafoglio, io ti denuncio alla polizia e voglio che ti carcerino. Poi mi rendo conto del fatto che tu sei povero e non voglio più farti carcerare, posso compiere un secondo atto di linguaggio, ritiro la denuncia e tu non sei più. Capisci cosa vuole dire questo? Che un atto performativo istituisce condizioni di realtà che però sono revocabili da un altro atto. Io posso dire la seduta è tolta e poi mentre voi vi alzate dico ma ho ancora una cosa importante da dirvi, e allora l'atto di andarsene si sospende e mi state ad ascoltare per altri 5 minuti. Cioè allora, riguardo al debito, questo cosa vuol dire? Che il debito non è una cosa naturale come le nuvole faranno venire la pioggia, ma è l'affermazione: io ti restituirò quello che tu mi hai dato. Poi accade qualcosa che lo rende impossibile e allora con un atto di linguaggio io ti dico: puoi rimettere il mio debito, puoi perdonarmi il debito, e tu dirai sì, te lo perdono, in cambio farai qualcos'altro, oppure in cambio non fai niente, oppure creiamo una nuova comunità politica che mi renda possibile avere indietro non lo so, inventi qualcosa che permetta di uscire da una situazione che, come nel caso della crisi europea, è una situazione che si sta rivelando distruttiva per la popolazione. Purtroppo però è distruttiva per la popolazione, ma sta arricchendo moltissimo alcune grandi agenzie finanziarie. Quindi... Ecco, è per questo che nessuno sta compiendo l'atto di linguaggio necessario. Nessuno sta dicendo il debito europeo è inesigibile. E dunque passiamo ad una forma di unione politica nella quale il debito viene rimesso. Nessuno lo dice, perché le grandi agenzie finanziarie, soprattutto tedesche e francesi, ma anche italiane, ma anche americane e così via, hanno tutto l'interesse a strangolare alcuni popoli, non solo, ma l'imprenditoria, la classe padronale di gran parte d'Europa sta usando questa crisi per cambiare le condizioni di lavoro in maniera tale da ricavarci profitti e così via. Quindi il debito non è una condizione naturale, è un rapporto di forza, è un atto di linguaggio che implica un rapporto di forza, e all'interno di questo rapporto di forza si creano poi le condizioni per sciogliere o non sciogliere quell'atto di linguaggio medesimo. Chiuso l'argomento debito, torno alla questione da cui ero partito, e cioè il rapporto tra finanziarizzazione e sociologia della comunicazione, insomma dimensione tecnica e comunicativa. Ho detto prima che la dinamica... Scusi, l'incontro è stato il 23, giusto? Non ho capito. L'incontro, la presentazione del libro è stato il 23? È stato il 24. 24. Venerdì 24. No? Mi ricordo, ma basta andare a guardare su da qualche parte. Qua. Era venerdì sicuramente. Ma perché noi siamo andati prima? Che giorno era? Siamo andati via prima perché avevamo una materia. Ma venerdì c'era un 25 maggio. 25, allora 25. Era venerdì. Calcola quando era venerdì e 25. Comunque non ha molta importanza sempre il foglio. Prima ho spiegato che la finanziarizzazione, la globalizzazione dei mercati finanziari, la partecipazione di massa al mercato finanziario sono fenomeni che presuppongono una messa in rete, diciamo, presuppongono un passaggio tecnico che è anche un passaggio comunicativo, e cioè la disponibilità della rete telematica e la trasferibilità in tempo reale dei dati relativi alla finanza. Ecco, è per questo che che la creazione di internet rende possibile il processo che oggi chiamiamo finanziarizzazione. Contemporaneamente però, sul piano sociologico, noi possiamo osservare un altro fenomeno che è strettamente collegato con la nuova tecnologia, con la tecnologia digitale e di rete, e questo altro fenomeno è la frattalizzazione, frammentazione e ricombinazione dei processi di scambio, sia sul piano del lavoro che sul piano della finanza, del denaro. Cosa vuole dire questa cosa qua? Parliamo di precarietà e del rapporto tra precarietà e finanziarizzazione. Cos'è la precarietà? Cos'è la precarizzazione? Lo sapete bene. È in primo luogo una separazione del rapporto di lavoro dalla personalità, dal tempo e dalla persona del lavoratore. Nel passato, se il capitalista voleva utilizzare il tuo lavoro, doveva, per così dire, comprare tutto il tuo tempo, doveva fare un contratto in cui c'era scritto che da oggi in poi fra noi c'è un rapporto per cui io ti pago un salario e tu mi dai il tuo lavoro, io guadagno sul tuo lavoro. Perché questo? Perché quello che interessava al capitalista non era la tua personalità, era il tuo tempo, ma per avere il tuo tempo doveva avere la tua disponibilità, la tua persona. E la tua persona è una persona giuridica, ha dei diritti, è una persona fisica, si ammala, ha delle caratteristiche umane, che ne so, nel caso di una donna può avere una gravidanza, insomma si determinano una serie di caratteristiche che riguardano la persona e in un rapporto di lavoro contrattuale a tempo indeterminato, come si usa dire, fisso, lavoratore è una persona, non un semplice portatore di tempo. Grazie alla rete telematica diventa possibile accedere al tempo di lavoro senza dover accedere al contratto con una persona. Cioè diventa possibile in maniera sempre più articolata e sempre più frammentata comprare dei frammenti di tempo, un'ora, un mese, sei mesi, e diciamo diventa possibile frammentare il tempo e trasformare il tempo in frammenti di tempo non personale. Il tempo dei lavoratori in qualche modo non è più collegato con la loro disponibilità giuridica in quanto persona. Il tempo dei lavoratori diventa come una specie di distesa indifferenziata nella quale è possibile prendere attraverso l'uso di una tecnica che poi è la tecnica cellulare, la cellularizzazione del tempo. Il tempo diventa una distesa di cellule di tempo che possono essere comprate puntualmente non come persone ma come cellule di tempo e ricombinate attraverso la macchina reticolare, la macchina linguistica globale. Cosa vuole dire ricombinare? Ricombinare vuole dire trasformare frammenti di tempo in un continuum arceologico, cioè io ho bisogno di produrre un oggetto, chiedo a una persona che vive in Polonia, una che vive in Brasile, una che vive a Milano, di darmi 30 ore del loro tempo ciascuno. questi tramite la rete telematica mettono a disposizione il loro lavoro come lavoro intellettuale, ma anche come lavoro materiale, perché qualcuno può anche mettere insieme dei pezzi di ferro, poi metterli su un aereo e mandarlo nel luogo in cui questi pezzi di ferro si assemblano. Quindi la rete rende possibile una disseminazione, una frammentazione, ovviamente del tempo di lavoro mentale, del tempo di lavoro cognitivo, del tempo di lavoro informativo, ma anche una costante frammentazione e ricombinazione del tempo di lavoro materiale. Ecco dunque che grazie alla rete diventa possibile accedere al tempo dei lavoratori senza dover con loro stabilire un rapporto di tipo giuridico personale. Ecco che i lavoratori non esistono più a rigore, non c'è più il lavoratore, c'è il tempo di cui il lavoratore è come un puro e semplice portatore fisico che non ha più la possibilità di diventare persona, di contrattare come persona. Ecco perché uno dei fenomeni a cui stiamo assistendo è la distruzione, l'abolizione dei contratti collettivi. Il padronato tende a non fare più contratti collettivi che lo impegnano nel corso del tempo, ma tende a fare dei contratti precari, cioè a stabilire: io ho bisogno di un certo numero di ore del tuo tempo, tu mi dai il tuo tempo, io ti pago per quello e basta, e poi la macchina ricombina i frammenti di tempo che tu mi hai fornito. Questo ci spiega il processo di precarizzazione, ma guardate, andiamo a vedere che cosa succede nel mondo del... questo è quello che accade nel mondo del lavoro. Andiamo a vedere cosa succede nel mondo del capitale. In fondo succede la stessa cosa. Cioè, il capitale, che un tempo nell'epoca borghese era disponibile solamente in grandi quantità, c'erano i grandi proprietari, i grandi capitalisti che disponevano di grandi patrimoni e che investivano i loro grandi patrimoni e rischiavano i loro grandi patrimoni. Da un certo momento in poi diventa possibile fare un'altra cosa, cioè andare a casa del impiegato, del pensionato o anche dello studente e dirgli: se tu mi dai 500 euro, una piccola somma, io ti prometto che la metto, la investo in azioni che nell'arco di qualche mese o di qualche anno moltiplicheranno il tuo capitale. Ecco che il capitale finanziario comincia nel corso degli anni 90 a drenare non più solo i grandi capitali, ma minuscoli frammenti di capitale cellulare, frammentario, frattale, che viene costantemente ricombinato dalla macchina finanziaria intesa come rete. È lì, è la rete che rende possibile questo drenaggio dei fondi pensione, del net trading e così via, così via. Nel corso degli anni 90 la partecipazione di massa al mercato finanziario diventa una vera e propria moda, un fenomeno enormemente diffuso soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma largamente anche in Europa. Diciamo dal 97 in poi, dal 97 al 2000 diventa un fenomeno massiccio anche in Europa. Questo fenomeno crea una massa di capitale finanziario che rende possibile quella che viene chiamata la dot-com mania, la mania delle dot-com, delle piccole dot-com, è una piccola azienda virtuale. Come si finanziarono all'inizio di internet le piccole aziende virtuali che poi per gran parte morirono, mentre alcune divennero Amazon, Facebook, Google e così via? Come si finanziarono all'inizio queste piccole aziende? Si finanziarono proprio raccogliendo capitale da un pulviscolo enorme di piccoli investitori che mettevano i loro risparmi in una dinamica economica che all'inizio effettivamente funzionava, perché questi soldi creavano aziende che poi si quotavano in borsa, che poi restituivano dei dividendi talvolta anche molto alti. Io cito sempre il caso del mio amico Ambrogio, il quale fra il 97 e il 2000 divenne, con mia grande sorpresa, un azionista. Passava il suo tempo a investire il suo stipendio, che era uno stipendio di un impiegato comunale, lui lo investiva in azioni, seguiva continuamente il mercato finanziario e guadagnava, cioè si è comprato una macchina, faceva una vita più alta, più ricca di quella che aveva fatto abitualmente per 3 anni. Nella primavera dell'anno 2000 tutto questo castello, tutto ad un tratto, crolla. Tra il marzo e l'aprile del 2000 crollano le più grandi aziende virtuali del mondo, Enron, WorldCom e poi una serie di altre dot-com. Dalla dot-com mania, dalla mania delle piccole aziende virtuali che aveva impazzato nell'ultima parte del decennio 90, si passa al dot-com crash, il crollo delle dot-com, che da una parte getta nella miseria il mio amico Ambrogio, che perde tutti i suoi capitali, poca roba, ma insomma quello di cui disponeva, e contemporaneamente il dot-com crash crea una nuova situazione per il lavoro cognitivo, per il lavoro diciamo dei lavoratori virtuali, dei lavoratori dell'informazione. Qual è questa nuova situazione? Che centinaia di migliaia di persone che avevano acquisito competenze, creato siti internet, servizi attraverso internet, reti per la distribuzione o per la produzione, eccetera, eccetera, migliaia di loro che erano cresciuti con la illusione di diventare imprenditori, tutto ad un tratto si ritrovano senza più una lira, senza più niente in tasca, una lira, perché questo accade prima dell'euro, bisogna dire, e però hanno acquisito delle competenze. Cos'è successo? È successo quello che Marx classicamente chiamava proletarizzazione, cioè una massa di persone che acquisiscono competenze sperando di potersi mettere in proprio, diventare artigiano, imprenditore, eccetera, poi tutto ad un tratto si ritrovano senza più niente e dunque la sola cosa che possono fare è rivolgersi al capitalista, a colui che ha vinto nella battaglia, quell'uno su mille che ce l'ha fatta, e mettere il proprio lavoro a disposizione a qualsiasi condizione. E inizia, dopo la dot-com mania e dopo il dot-com crash, si entra nella fase della precarizzazione del lavoro cognitivo di massa. Ma questo è possibile grazie ad una frattalizzazione, frammentazione, ricombinazione del tempo di lavoro, ed è anche possibile grazie ad una frammentazione, frattalizzazione e ricombinazione del capitale finanziario, perché il capitale finanziario ha acquisito la capacità di ingigantirsi e di crescere non più solo sull'investimento dei grandi proprietari, ma anche e soprattutto grazie al drenaggio di una massa enorme di piccolissimi frammenti di capitale che vengono ricombinati grazie alla rete. Ecco, come vedete, dopo tanto girovagare intorno a questioni di tipo economico e così via, però poi noi concludiamo con una considerazione sulla centralità di una trasformazione che avviene sul campo della sociologia della comunicazione, nel senso più classico del termine. Cioè è grazie a un mutamento della tecnologia di comunicazione e quindi alla nascita della rete internet che questo processo si mette in moto, ma anche grazie ad una trasformazione sociologica del lavoro cognitivo che questa trasformazione può poi consolidarsi, perché nel corso dell'ultimo decennio la produzione cognitiva, la semioproduzione, la produzione di beni informazione ha potuto continuare, ha potuto rafforzarsi grazie alla diffusione del lavoro cognitivo nella rete. Ecco, a me interessava concludere su una considerazione relativa ad un aspetto propriamente comunicologico, cioè la formazione di internet e in parallelo la formazione di una configurazione del lavoro che è possibile solo grazie all'esistenza di internet. È grazie alla macchina ricombinatoria, alla macchina linguistica ricombinatoria che noi chiamiamo internet, che diventa possibile questo processo di disseminazione e ricombinazione del lavoro. Per cui il call center che noi chiamiamo per avere un'informazione sugli aerei che partiranno o sulle vendite di automobili probabilmente sta a Calcutta piuttosto che a Caltanissetta o chissà dove, ma il servizio che questo call center ci offre è un servizio frammentato dal punto di vista del lavoro, ma ricombinato, cioè ricomposto in un servizio unico, in una merce, in un bene unico, grazie alla rete. Guardate, io direi che concludo qua. Ci sono, e poi dopo dico due cose sulla bibliografia e sull'esame. Nel grande guazzabuglio che insomma abbiamo messo insieme in questi due mesi, io ho cercato di offrirvi intanto una considerazione di tipo specifico relativa al rapporto fra comunicazione, tecnologia, sociologia e dinamica finanziaria, però soprattutto io ho cercato di offrirvi uno sguardo, una visione approssimativa, confusa, quanto voi volete, però una visione dei nuovi temi che stanno emergendo in parallelo con l'emergere della crisi finanziaria della quale noi stiamo tutti parlando. Perciò, diciamo, non pretendete, e meglio pretenderò ovviamente, non pretendete di avere una visione chiara di quello che abbiamo detto. La visione chiara non c'è, non ce l'abbiamo. L'importante è cominciare a mettere a punto, a perfezionare o a elaborare alcuni concetti, che sono concetti relativi alla dimensione sociologica naturalmente, ma che sono anche concetti relativi alla dimensione economica, alla dimensione semiotica o perfino, che ne so, alla dimensione psicopatologica e così via. Insomma, i campi che abbiamo attraversato sono molteplici. Ecco, al centro di tutte queste considerazioni, se dovessimo dire ma quali sono poi i nuclei tematici, nuclei concettuali più importanti di questa gincana concettuale che abbiamo fatto, di questo percorso che abbiamo fatto. Io direi che i nuclei concettuali principali sono: uno, la analogia tra denaro e linguaggio, quindi l'istituzione di una, chiamatela come vi pare, di una metafora, di un'analogia, di una specie di modello paradigmatico e così via, in cui le dinamiche dell'economia finanziaria si possono in qualche misura spiegare, comprendere, concettualizzare attraverso dei concetti di tipo semiologico, di tipo linguistico. Questo è il primo punto che certamente abbiamo affrontato. Ricordate che io sono partito da una citazione, la citazione da Robert Sordello, che dice: il linguaggio e il denaro hanno una cosa in comune, che sono nulla e muovono tutto. Sono nulla perché sono degli immateriali, sono degli oggetti che in sé non fanno niente, non hanno nessuna consistenza, ma che hanno invece una consistenza nel momento in cui noi investiamo la nostra fiducia. Le parole, così come il denaro, hanno valore se noi crediamo che abbiano valore. Se noi non crediamo nel, come accade nei fenomeni di collasso economico finale, no? Quando nessuno crede più, il marco nel 1928 nessuno credeva più nell'esistenza del marco, il marco non valeva più niente, ti volevano 6 miliardi di marche per comprare un pacchetto di sigarette. La superinflazione cos'è? È un crollo della fiducia, della credenza degli esseri umani nel valore di quell'oggetto che chiamiamo denaro. Ma lo stesso vale per le parole. Se voi non avete nessuna fiducia nella parola di un'altra persona, quello può spendere quanto parole vuole, non può comprare nulla di voi perché voi non gli credete. C'è un fenomeno di inflazione semiotica in questo caso: moltissime parole per comprare pochissima fiducia. Ecco, dunque linguaggio e denaro. Due, debito. Ecco un altro concetto che secondo me è centrale nella nostra discussione, ed è centrale perché il concetto di debito non soltanto è ovviamente importantissimo per capire quello che sta accadendo nel mondo del nostro tempo, ma anche perché nel concetto di debito è implicita questa analogia tra dimensione economica e dimensione semiologica. Perché cos'è il debito? Lo ripeto, il debito è un atto di linguaggio che mette in moto una catena, che però è una catena che si può sciogliere grazie ad altri atti di linguaggio. Quindi, dunque, la questione del debito che si piazza lì proprio nel punto di incontro fra problematica economica e problematica semiologica. Terzo campo di riflessione è quello propriamente comunicologico, cioè come ha potuto verificarsi il processo di finanziarizzazione. Ha potuto verificarsi grazie a: uno, la creazione della tecnologia di rete che mette, adesso non sto a spiegare quello che ho appena spiegato, insomma, che rende possibile questa disseminazione, frammentazione e ricombinazione, e grazie ad una trasformazione della società e particolarmente del lavoro che rende possibile quel processo che chiamiamo oggi precarizzazione. Ecco, questi direi sono tre naturalmente ne abbiamo affrontati molti altri, ma questi sono, direi, i temi, i piani concettuali ai quali ho dedicato una maggiore attenzione. È naturale che se una utilità questo corso può averlo, non è soltanto un'utilità scientifica, pochi di voi faranno i finanzieri e quindi potreste anche considerare poco interessante dal punto di vista dello specifico finanziario questa questione, ma molti di voi, anzi probabilmente tutti, sarete coinvolti negli effetti della crisi finanziaria che stiamo vivendo e dunque vi serve capire qual è la genesi di questo processo. Vorrei dire che forse questo potrebbe servirvi non solo da un punto di vista politico e sociale, ma anche dal punto di vista specificamente artistico, perché sempre di più l'interesse degli artisti si sposta verso la questione della crisi contemporanea e delle sue possibili vie d'uscita. Cito per tutti un caso soltanto, che è quello di un collettivo che compare in questi prossimi giorni nell'ambito di Documenta Kassel, che si chiama End, e che è un collettivo che ha già compiuto una serie di azioni centrate sul tema Time Bank, banca del tempo. È un gruppo del quale fanno parte molti artisti, fra i quali Anton Vidocq, Julieta Aranda, gli animatori del sito di Flux Journal, insomma gente che lavora nell'ambito dell'arte contemporanea in un punto che sta a metà tra l'arte visuale, l'arte della comunicazione, il subvertising e così via, ma insomma io credo che la questione, che questa crisi alimenterà certamente nel bene o nel male l'immaginazione degli artisti nei prossimi tempi. Potremmo dire, io avanzo questa cosa come una specie di, diciamo, di scommessa teorica, e potremmo dire che forse agli artisti si può anche chiedere di lavorare alla soluzione della crisi finanziaria contemporanea, perché se è vero che il debito è un atto di linguaggio e che un atto di linguaggio è ciò di cui abbiamo bisogno per risolvere le conseguenze del debito, beh, l'atto di linguaggio è ciò che agli artisti compete più di ogni altro. Cosa vuol dire questo? Beh, non lo so, può voler dire un miliardo di cose, può voler dire la creazione di forme di scambio come le monete di comunità che rendano possibile la costruzione di circuiti nei quali non si usano più gli euro o i dollari o gli yen, ma si usano delle forme di scambio come Bitcoin che si stanno sperimentando, ma può anche voler dire che agli artisti viene in mente una forma di vita nella quale la riproduzione non deve più passare attraverso circuiti di scambio monetario e così via. Non lo so, è compito dell'immaginazione inventare ciò che è urgente, ma per il momento non c'è. Basta, chiuso. Allora, io le ripeto per chi è arrivato dopo, l'esame si svolgerà il 4 di luglio. All'esame io vi chiedo di portare un libro tratto dalla bibliografia che vi ho mandato, che dovreste avere tutti. I primi due libri che io indico, ma insomma lo dico semplicemente perché sono quelli più specificamente legati al tema, non hanno nessun privilegio però rispetto agli altri, i due libri più cruciali sono quello di Lazzarato e quello di Greber, che riguardano il tema del debito. Inoltre nel prossimo periodo, diciamo nel prossimo 10 giorni, io vi mando un documento di sintesi dell'intero corso, e quindi vi chiederò anche di leggere quelle quattro pagine che saranno il documento di sintesi. Per finire, Luca ha messo online in un sito che io vi manderò tutto l'indirizzario, ha messo online la registrazione di tutte le lezioni, quindi se uno ha poi voglia di riascoltarsene parte, no, spero non tutte, ma insomma se chi voglia ha la possibilità di andarsi ad ascoltare anche qualcosa di queste lezioni. Che manca? Niente, non manca proprio niente. Questi due fogli, chi non li ha firmati, li firma. Il 12 di giugno sarà a Milano David Graeber per una conferenza che non so dove si terrà. E vi, se potete, se avete due ore libere, vi consiglio di andarlo ad ascoltare, perché c'entra moltissimo con le cose di cui abbiamo parlato qui, ma anche perché è una bella esperienza ascoltare David Graeber, l'unico professore universitario americano che sia mai stato espulso dalla sua università, e questo è un titolo di merito che dovremmo riconoscergli. E... ma da come parla sembra che questa sia l'ultima lezione. Io ho una ulteriore possibilità. Siccome eravamo rimasti l'11, eh? Siccome eravamo rimasti, c'è un altro, no, l'11. Il 12 io proporrei. Il 12. L'11 che giorno è? Lunedì. Perché martedì non va bene? No, no, io sono a Milano martedì, quindi se vogliamo, io prima ho fatto il conto e con oggi possiamo considerare concluso, ma possiamo invece decidere di rivederci, anzi rivediamoci il 12, che c'è anche Graeber a Milano, se vi è possibile. Io non direi che il 12 ci rivediamo, perché voi mi facciate delle domande, perché io non ho più niente da aggiungere. Ma il 12 possibile? 12 alle 12 sono a Milano. Il 12 alle 12 io sono qua. Graeber è il 12, come la sua prossima lezione? Il 12 a mezzogiorno io sono qui, e il giorno stesso c'è anche Graeber.